O Roberto Carlos sugeriu que eu cantasse uma música. E eu, claro, atendi o rei. Essa canção é uma canção sempre cantada por cantores de vozes muito extensas, muito agudas, como o grande Pavarotti, como o próprio Lúcio Dalla, seu compositor. Zezé de Camargo, nosso querido Zezé. Vida venare lucca e tira fuori del vento su una vecchia terrazza aguanta il goffo di succhiento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto e si schiarisce la voce e ricomincia il canto. La bianca scia di un'elica, guardo negli occhi la ragazza che gli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso c'è una lacrima che lui credette di affogare.